in primo piano. Buongiorno gentili ascoltatrici e ascoltatori di Radio 24, oggi è domenica 26 agosto, io sono Cristina Carpinelli e questa è la rassegna stampa della nostra radio che iniziamo leggendo Il Sole 24 Ore. Il caso Grecia rilancia la riforma del trattato, la Merkel vuole un vertice sulla carta europea per fine anno. Il caso Grecia rilancia la riforma del trattato europeo, secondo lo Spiegel Angela Merkel vuole un vertice per fine anno dopo il rapporto della Troica su Atene a ottobre. L'Europa dovrà fare subito quanto deve, ha detto il presidente francese Hollande, che ha visto il premier greco Samaras. Il ministro delle finanze tedesco Schäuble dice: più tempo significa più soldi. Questa è l'apertura del Sole 24 Ore. Sole 24 Ore che ha un doppio editoriale, mercato e regole. Il primo dal titolo Il deficit di democrazia fa danni come il debito, a firma di Guido Rossi, e l'altro editoriale L'Europa batte gli Stati Uniti nella lotta agli eccessi di Marco Onado. Allora iniziamo con il testo di Guido Rossi. Il debito pubblico in questo momento storico coinvolge in tutti i paesi occidentali il problema della democrazia. Ai cittadini sconcertati e impauriti dalle continue e contraddittorie dichiarazioni e decisioni sul debito pubblico, sull'influenza che quello degli altri paesi può avere sul nostro, sui comportamenti altalenanti dei mercati, si pone drammaticamente ora un problema ancor più grave e finora sottovalutato, ovvero se debbano essere ridiscussi completamente la democrazia come sistema e i diritti dei cittadini, le loro disuguaglianze, le caratteristiche della società in cui sono destinati a vivere. Il debito pubblico è invece un problema che riguarda soprattutto i suoi creditori, i cui interessi molto spesso, e in questo frangente quasi mai, non coincidono con quelli dei cittadini. L'equilibrio tra debito e democrazia è peraltro assai difficilmente raggiungibile ed è per questa ragione che quando il mercato del debito diventa despota dell'equilibrio viene infranto a tutto danno della stragrande maggioranza dei cittadini e a vantaggio di quell'uno o poco più per cento che si mangia quasi tutta la ricchezza nazionale. Poi ovviamente continua questa analisi di Guido Rossi. Vi dicevo appunto l'altro testo di Marco Onado, L'Europa batte gli Stati Uniti nella lotta agli eccessi. E questa è un'analisi sicuramente positiva appunto della situazione europea. L'Europa sta cercando di costruire una diga contro gli eccessi della finanza e lo sta facendo molto meglio degli Stati Uniti, che per lungo tempo hanno vantato un'efficienza del proprio sistema di regole e vigilanza che la crisi finanziaria ha dimostrato essere ampiamente meritata. Il vecchio continente nel corso dell'estate ha fatto due passi avanti importanti, mentre la vigilanza americana e in particolare la SEC ha segnato due clamorosi autogol. Se fosse una partita di calcio saremmo 4-0 per noi. Nel corso dell'estate hanno preso definitivamente corpo due regolamenti europei importanti relativi a tre aspetti che sono stati al centro della crisi finanziaria: le vendite allo scoperto, le posizioni in credit default, i mercati derivati over the counter, cioè non regolamentati e comunque privi di una controparte centrale che assuma su di sé il rischio di insolvenza di uno dei contraenti. Questi ultimi, come hanno dimostrato i casi Lehman, sono un fattore scatenante delle crisi sistemiche. E questo è quanto trovate oggi sul Sole 24 Ore. Altre notizie dalla prima pagina: i coreani pagano ma è Google che trema, con un'analisi di Luca De Biase. La Samsung ha copiato l'iPhone della Apple e deve pagare $1 miliardo di danni. La convenzione è diventata sentenza di una giuria popolare californiana maturata dopo un mese di processo coordinato da un giudice di origine coreana. È una sentenza che fa storia, ma è una storia, dice De Biase, che resta da scrivere. Altre notizie: è morto Neil Armstrong, il primo uomo sulla Luna. Queste saranno poi tutte notizie che troveremo anche sulle pagine degli altri, sulle prime pagine degli altri quotidiani. Sul Sole 24 Ore Vi segnalo le lunghe pagine di approfondimento dell'agenda per la crescita. Nel caso specifico vi segnalo l'articolo a pagina 6, cantieri al via per 9 miliardi tra le grandi opere Mose, Tirrenica, variante di Valico e Ragusa-Catania. E questo un articolo che trovate all'interno del Sole 24 Ore. Il Sole 24 Ore oggi, ne dico, anche con l'inserto della domenica, l'inserto culturale. E vi segnalo la pagina dedicata al cinema, in particolare al cinema di Venezia. Viva il cinema documentato, grazie per il Leone alla carriera, peccato per il mio film su Salvatore Giuliano rifiutato nel 62 con una scusa. E questo è un articolo scritto, un testo scritto da Francesco Rosi. Sin da bambino sono stato affascinato dal cinema, influenzato dalla passione che mio padre aveva per la fotografia e per i film. Ho cominciato a ridere e piangere con le immagini e le storie di Charlie Chaplin, di Buster Keaton, di Harold Lloyd. Ho conosciuto la storia e il mondo attraverso i grandi film. Più tardi, abbandonati gli studi di giurisprudenza, mi misi subito a lavorare come capitava, radio, teatro, piccole parti in film, partecipazioni come apprendista, collaboratore e sceneggiature. Erano anni molto fervidi, quelli subito dopo la guerra. Il cinema italiano con il neorealismo rivoluzionava il modo di fare cinema, affermando un bisogno di verità che corrispondeva a un'esigenza morale prima che estetica. Questo è l'incipit del testo che pubblica oggi l'inserto culturale domenica del Sole 24 Ore. Vi segnalo anche un'intervista, comunque un'analisi del film di Marco Bellocchio. No, non è un film attesi, il film ispirato a Eluana. Bella Addormentata non è un film attesi, un film di difesa di un principio. Io l'ho fatto prima di tutto perché mi sono sentito libero, relativamente, di pensare, di immaginare e poi di realizzare quello che nel tempo avevo pensato e immaginato. Solo a queste condizioni, e cioè di non avere sempre l'angoscia di essere nel giusto, ho potuto farlo. Quello che il film è, lo capirò nel tempo, quando sarà visto dal pubblico, e allora avrò tante risposte, tante reazioni a cui reagirò a mia volta. La sua storia è appena cominciata, è probabile che per l'argomento Bella Addormentata da alcuni possa essere preso a pretesto per parlare d'altro. Per questo esercito di ciechi, le storie, i personaggi, i loro palpiti segreti sono secondari, se non del tutto insignificanti. Conta quello che il film ha voluto dire, quello che loro pensano abbia voluto dire, quindi si riferisce al pubblico, il messaggio del film per condannare o assolvere. A me non sembra che il film si presti a tante interpretazioni, non è un film ecumenico e conciliativo. Questo quanto trovate sul Sole 24 Ore oggi in edicola. Allora, vediamo insieme invece le prime pagine degli altri giornali. La Stampa, mi segnalo La Stampa con un'intervista al ministro Severino. Giustizia civile per la crescita, il piano Severino, task force in ogni tribunale, 5 anni per azzerare l'arretrato. Allora, dalla prima pagina poi mi segnala alcuni estratti dell'intervista. Abbiamo fatto le simulazioni e cominciato a discutere con le categorie interessate. Mi serviranno 200 persone più 30 se vogliamo azzerare anche le cause in Cassazione. E questo quanto trovate su La Stampa. L'intervista è a pagina 3. Severino, una task force per smaltire l'arretrato civile. Il ministro della giustizia, in 5 anni potremmo azzerare le code. Allora, l'intervista è di Francesco Grignetti. Allora, proprio dall'Europa ci giungono sollecitazioni a procedere con le riforme. La Reding, in un'intervista ad Avvenire, ci critica severamente. Tra corruzioni, processo civile lento, burocrazia inefficiente, l'Italia è un ambiente poco amichevole per le imprese. Quando lei richiama tutti alla realtà di una maggioranza composita e quindi di un percorso decisionale faticoso, e alla Reding che risponde, e la Severino dice: d'altra parte è verissimo che il nostro processo civile è un malato al quale abbiamo dedicato già molte cure, ma che ha bisogno di riceverne ancora. E continuiamo tra poco con l'intervista alla Severino sulla Stampa. 7.32, ben ritrovati alla rassegna stampa di Radio 24. Stavamo leggendo dalla stampa l'intervista al ministro Severino, che parla di una task force per smaltire l'arretrato civile. L'idea, dice la Severino, è creare delle task force da dedicare ai fascicoli pendenti da più tempo. Un'ipotesi è formare dei gruppi di lavoro composti da un magistrato e due avvocati. Abbiamo fatto delle simulazioni: se applicassimo 200 persone a smaltire le cause in appello che sono in attesa di decisione da oltre 3 anni, calcolando 40.000 sentenze l'anno, impiegheremo 5 anni per azzerare l'arretrato complessivo. Con lo stesso metodo, impiegando 30 unità al lavoro in Cassazione, occorrerebbero 10 anni. È chiaro che, dice la Severino sulla stampa, se aumentiamo le persone disponibili diminuiscono i tempi. Vedremo anche perché al problema del numero dobbiamo far precedere quello della qualità. Questo quanto trovate sulla stampa, la stampa che dedica ampio spazio anche alla scuola, all'istruzione, le novità d'autunno, le nuove assunzioni, le assunzioni dei precari e il concorso. Poi vi segnalo sempre dalle pagine interne della stampa, pagina 7, Bersani attacca Grillo, lo avete sentito, se ne è parlato anche nel corso del nostro giornale radio, e dice fascista. Il segretario del PD: sul web ci dicono cadaveri, zombie, non ci impressioniamo, venite qui a dire certe cose. E vi segnalo anche un'intervista a Stefano Fassina del PD. Il tema è: perché la Fornero è stata esclusa dalle feste, non l'ha voluta la segreteria. Allora vi leggo un estratto ovviamente di questa intervista. Stefano Fassina: perché il ministro del lavoro Elsa Fornero è stata esclusa dalle feste del Partito Democratico? E Fassina risponde: è stata fatta una valutazione dalla segreteria del partito, non c'è niente di personale, ma c'è una questione politica. Con lei c'è stata difficoltà di dialogo in questi mesi sul drammatico problema degli esodati. Ci teniamo molto affinché questo confronto ritrovi efficacia in Parlamento e nelle commissioni lavoro della Camera e del Senato. E l'intervistatore dice: cosa non avete digerito in particolare del comportamento della titolare del welfare? E Fassina: dopo il balletto dei numeri rimangono ancora decine di migliaia di lavoratori in condizioni drammatiche. Personalmente non ho condiviso l'uscita del ministro sull'attenzione nei confronti dei giovani. I tempi sono stretti, servono meno parole. Ora ci tocca provare a recuperare gli errori. Di grandi proclami ambiziosi e faraonici, ma che non portano a nulla, non c'è bisogno in questo momento. La promessa riduzione dell'IRPEF sui salari di produttività non c'è stata, è una misura di portata limitata, ma pur sempre utile, soprattutto per le fasce più deboli. Dalla prima pagina della stampa vi volevo segnalare anche l'editoriale di Mario Calabresi, il direttore: se la politica è ostaggio dei tifosi. 4 anni fa, alla vigilia delle 2 grandi convention, un americano su 4 non aveva ancora deciso per chi votare. Oscillava tra il fascino del cambiamento impersonato dal giovane senatore nero Barack Obama e l'esperienza di un eroe di guerra che amava parlare chiaro, John McCain. I due candidati facevano a gara a rassicurare, dare speranza, si battevano per conquistare quel 25% di elettori mobili che stavano al centro del campo. Oggi lo scenario è completamente cambiato, solo un americano su 20, il 5%, non ha ancora deciso da che parte stare. Tutti gli altri sanno con certezza chi non vogliono alla Casa Bianca, ma vanno convinti a presentarsi alle urne il prossimo 6 novembre. La battaglia delle elezioni 2012 è questa: mobilitare i propri elettori, convincerli che l'occasione non va sprecata perché esistono due visioni contrapposte del mondo e non bisogna lasciar prevalere quella degli avversari. Passo al Corriere, ma prima volevo segnalarvi dalla stampa un articolo a pagina 12, dossier vacanze in monastero, in fuga dal rumore, l'estate dei chiostri fa il tutto esaurito. Da nord a sud il turismo dello spirito conquista gli italiani e offre privacy, solitudine e bellezza contro la crisi di valori. Allora, mi leggo soltanto l'inizio di questo articolo. Ma il telefonino se l'è portato? Lo adopera? Sì che l'ho portato. E per prendere, prende. Non ci sono problemi alla Verna. né per Vodafone né per TIM, ma qui se ne fa un uso diverso, vale anche per l'abbigliamento estivo, non siamo in spiaggia. Il signor Luigi, romano, pensionato di 72 anni, in convento ci viene da una vita e ancora non se n'è stancato. Nell'Eremo, in provincia di Arezzo, dove pregava San Francesco, lui arriva a Pasqua, a Natale e per 2 settimane ad agosto, sempre con la moglie e questa volta anche col figlio avvocato. I prezzi sono moderati, 48 euro al giorno per la doppia, a pensione completa, un po' di più per la singola. Tante passeggiate nel bosco, tanta gioventù tra i confratelli, belle amicizie con gli altri ospiti, insegnanti, professionisti, commercianti, il conforto della preghiera, la consolazione del silenzio. Non ci sarebbe l'obbligo, ma frequento le funzioni dalle orazioni della mattina al Santissimo, al tramonto, alla compieta delle nove di sera. Qualcuno si informò sui soggiorni in convento ai tempi del nome della Rosa, si dice appunto questo ospite, e l'autore del romanzo Umberto Eco in un ex monastero gesuita ha finito per viverci. Altri si incuriosirono con l'uscita nel 2005 del film di Philip Groening, Il grande silenzio. Luigi, che ha scoperto tanti anni fa questo tipo così particolare di villeggiatura, è all'avanguardia di un movimento in crescita sempre più decisa, anche per la crisi, più di valori che delle finanze. Questo è l'articolo che segnalo all'interno appunto della Stampa. Guardiamo come apre il Corriere della Sera. Lavoro, i contratti a rischio, l'agenda di Palazzo, Chigi per la crescita agita i partiti. Inchiesta sulle conseguenze della legge Fornero su precari, partite IVA e lavoratori atipici. Il nodo dei contratti a rischio, inchiesta del Corriere, gli effetti della legge Fornero su precari, partite IVA, lavoratori atipici, il piano per la crescita agita partiti e sindacati, elogi dalle imprese. Di questo si parla a pagina 2, a pagina 3 e poi si prosegue anche all'interno del Corriere della Sera con analisi e commenti. Riforme, iter troppo lungo, il governo crea una task force, criticala, le leggi approvate vanno rese subito operative. Per quanto riguarda le riforme riguardano diversi temi, ne abbiamo già approfonditi ieri. Il Corriere oggi parla dei punti critici, cioè le misure che rischiano di non vedere la luce, sono i servizi pubblici, gli enti locali e il nodo liberalizzazioni, la produttività e pubblico impiego a metà strada, l'equità sociale, conti pubblici, correttivi che mancano, la spending review, i regolamenti per adesso sono al palo, le dismissioni del patrimonio non si sa chi comprerà. I giovani supercitati, ma non c'è un progetto. E a proposito di giovani, dicevamo dalla prima pagina si parla di lavoro precario soprattutto, che purtroppo riguarda appunto in particolar modo i giovani. I nuovi rischi del lavoro precario, tutele e nuove barriere a un mese dal via alla riforma Fornero, contratti a termine, co e partite via, partite IVA, il monitoraggio del governo. A poco più di un mese di vita è entrata in vigore il 18 luglio, un tempo breve, caduto per di più nel cuore dell'estate quando tutto rallenta e la gran parte delle decisioni viene rinviata a settembre. Eppure si vedono già i primi effetti della riforma del mercato del lavoro, sia negativi come la difficoltà di rinnovare contratti a termine, sia positivi come la decisione presa da alcune aziende di stabilizzare i precari. Nei piani del governo, quei 4 lunghissimi articoli dovrebbero aiutare i giovani a trovare un'occupazione, impresa non facile visto che sotto i 24 anni e senza lavoro un italiano su 3. E allo stesso tempo costruire un argine contro la cosiddetta flessibilità cattiva, quella selva di 40 tipi diversi di contratto che in molti casi ha trasformato una sacrosanta esigenza del sistema produttivo nel problema numero uno di una generazione intera. Dalla flessibilità alla flessibilità cattiva, appunto, e quindi alla precarietà. Per questo la riforma Fornero è stata costruita con l'obiettivo di frenare i contratti a termine, quelli di collaborazione, le partite IVA e tutte quelle forme di precarietà che l'anno scorso hanno coperto quasi 7 assunzioni su 10, indicando come principale canale d'ingresso l'apprendistato, un misto fra lavoro e studio che impegna l'azienda a formare un giovane ottenendo in cambio un generoso taglio dei contributi da pagare. Il passaggio non è semplice perché è vero che la riforma dovrebbe favorire la crescita, parola magica contenuta anche nel titolo della legge, ma purtroppo è vero anche il contrario. Senza crescita, senza l'economia che gira, è difficile spingere un imprenditore ad assumere, sia a termine che con un contratto stabile, sia ad agosto che a settembre. Dal Corriere vi segnalo anche l'intervista a D'Alfano. Alfano: noi Alternative ai Democratici puntiamo a vincere, non al pareggio. Qualche ministro si sbraccia in vista del voto, non è questa la loro mission. Allora, onorevole Alfano, Bersani dice basta le larghe intese perché la politica torni protagonista alle prossime elezioni. Lei è d'accordo? Intanto una premessa, dice Alfano. Se pensiamo di ricominciare sui giornali e in TV con un'agenda tutta di palazzo, con un chiacchiericcio fatto di battute e di controbattute, allora vuol dire che siamo dei marziani che non comprendono il clima che c'è nel paese. E poi ovviamente si va avanti durante l'intervista. Io ho segnalato questi passaggi. L'intervistatore dice: pure nel PDL si è discusso e litigato sulle larghe intese, le esclude per il futuro? Ne rispondo con una domanda: ma lei immagina Silvio Berlusconi che guidi una campagna elettorale che punti al pareggio? Noi corriamo per vincere e governare. Io credo che gli elettori debbano avere chiara l'alternativa tra due modelli, senza trucco e senza inganno. Bersani si candida a premier, dice il giornalista. Voi sarete guidati da Berlusconi o no? Io sostengo, insieme al mio partito, che la candidatura del presidente Berlusconi sarebbe la miglior scelta. Poi comprendo anche che 18 anni di vita condotta in prima linea, ricevendo grandi riconoscimenti dal popolo, ma anche attacchi di ogni genere dagli avversari, possano creare stanchezza e suscitare la voglia di dire basta. Io però faccio affidamento sul suo attaccamento al nostro partito e sul suo senso di responsabilità per il futuro dell'Italia. Lei, chiude così l'intervista di Paola Di Caro ad Alfano, lei ha fatto un passo indietro dalla premiership in favore di un leader che aveva giurato che non si sarebbe mai ricandidato. Non si è ancora tolto nessun sassolino. Vuol farlo? Si stupisce, risponde Alfano, del fatto che esistano persone leali e che non coltivano ambizioni sfrenate e affrettate? Ho fatto la cosa giusta, in riferimento a una persona a cui sono legatissimo. E quando si fa la cosa giusta, si è in pace con se stessi, senza retorica. Non è detto che la politica sia solo casta e ricerca senza limiti dell'affermazione personale. Questa l'intervista ad Alfano. Adesso la linea alla viabilità, poi torniamo con la lettura degli altri giornali. Ben ritrovati con la nostra rassegna stampa. Guardiamo insieme come apre il giornale. Indietro tutta, il PD torna comunista, il partito dedica la sua festa a Togliatti e si spacca, Bersani insulta i grillini, fascisti, Vendola mette zizzania, la sinistra non è ancora al governo ma sembra già alla frutta. L'articolo è di Paolo Guzzanti. Dedicare la festona piddina a Palmiro Togliatti? Ecco un'idea eccellente, permette di spaccare la sinistra, dividere le coscienze e le conoscenze. E permette di ricordare due o tre cosette che sappiamo di lui. Palmiro Togliatti, è la mia opinione non solitaria, è stato un genio, un intellettuale sopraffino e un assassino per ragioni di Stato e di partito, come pochi. Un corsivista e un polemista da leccarsi i baffi. C'è anche un editoriale, e la firma è del direttore Vittorio Feltri, ci fanno fare la fine dei greci. Continuano a dirci che noi siamo la Grecia, ma ci comportiamo come se lo fossimo. Scusate, continuano a dirci che non siamo la Grecia, ma ci comportiamo come se lo fossimo. La quale Grecia, un paio di mesi or sono, circa nel pieno della buriana finanziaria che l'aveva stroncata, invece di abbassare la spesa pubblica, assunse 70.000 statali, condannandosi a morte. Ecco, noi, venerdì, grazie al governo Monti, abbiamo fatto la stessa identica cosa. Tagliare, risparmiare, non se ne parla neanche. Il Consiglio dei Ministri, mescolando, per non dire imbrogliando le carte, è riuscito nell'impresa di porre le basi per caricare sul gruppone della pubblica amministrazione 50.000 persone, cui sarà elargito regolare stipendio finché saranno in vita. Bell'affare, non proprio bello come quello greco, ma poco ci manca. Ne abbiamo dato notizia ieri con grande stupore nostro e immaginiamo del lettore che da anni sente predicare. Purtroppo gli organici statali sono pletorici e andrebbero ridimensionati. Ora anche uno sciocco sa che si può ridimensionare aggiungendo o togliendo. Dato che il governo italiano è costituito da professori coltissimi e intelligentissimi, ha pensato di annettere grasso al carpaccione già obeso della scuola e dell'università, anziché ridurre il numero. E questo è l'editoriale di Vittorio Feltri del giornale, il cui direttore è Alessandro Sallusti. Segnalo anche una notizia che viene riportata in prima pagina sul giornale e poi approfondita all'interno. Brescia licenzia Equitalia e assolda esattori più umani. Il comune di Brescia cambia tattica e cambia anche i suoi esattori. Per riscuotere IMU, multe, rete scolastica, non si affiderà più a Equitalia ma a due società private. Il motivo: vogliamo un interlocutore meno rigido, più attento alle esigenze delle imprese in crisi, che sono sempre state oneste ma ora non riescono a pagare. È solo una goccia, dato che in Italia sono 13.000 gli enti che si affidano a Equitalia, ma può essere un buon inizio per dare una svolta a un fisco percepito come vessatorio. Questa è la prima pagina del giornale. Libero riporta una vignetta con Monti che fa Arachiri di Monti: più tassa, meno incassa, controproducenti le stangate su yacht, aerei, supercar, tabacco, giochi, IVA, IRE, si imposta di registro, un flop anche il contributo di solidarietà e il governo si ritrova con un buco di oltre 5 miliardi. Dalla prima pagina di Libero vi riporto anche l'intervista alla Gelmini dal titolo: l'Italia non si salva se non aiutiamo il nord a ripartire. Il lavoro è già iniziato in largo anticipo sulla campagna elettorale. I coordinamenti regionali PDL di Lombardia, Veneto e Piemonte stanno elaborando strategie per riconquistare il nord. Hanno ripreso ad analizzare dossier con titoli evocativi come impresa, partite IVA e tasse, perché, come spiega l'ex ministro dell'istruzione, prima ancora coordinatore lombardo di Forza Italia Marastella Gelmini, c'è molto da fare a nord. E dice la Gelmini: l'Italia non si salva se non aiutiamo appunto il nord a ripartire. Dalla prima pagina di Libero vi segnalo anche un articolo dal titolo: Carmen la sorella a Tele San Marino, tra parentesi Rai, la ricca direttora e i poveri gruisti. I gruisti e la direttora. È la storia che ha per ambientazione la TV di Stato di San Marino e almeno per una delle figure in gioco la direttora è certamente a lieto fine. Per gli altri, i gruisti per l'appunto un po' meno. Chi sono i gruisti? Sono i giornalisti che fanno i pezzi, vanno in video eccetera alla RTV del terzo stato più piccolo d'Europa. Nella Repubblica del Titano si respira ancora aria di utopia. Oltre ad essere ancora nella lista nera dei paradisi fiscali e a contare frequenti tentativi non sempre fortunati di vari PM italiani nel cercare di penetrare i conti cifrati dietro ai quali si racconta si nasconderebbero depositi di politici e partiti italiani, San Marino ha un altro primato eccentrico: non riconoscere la figura di giornalista. Quindi si applica la qualifica corrispondente ad uno stipendio di 1.700 euro al mese, cioè gruista. Gruista specializzato se si conduce. Il direttore generale è invece ormai da 4 anni Carmen la sorella, già inviata di guerra del TG Rai, nominata e stipendiata da Viale Mazzini perché la televisione sammarinese compartecipata dalla Rai al 50%. Lo stipendio della direttora pagato dalla Rai è in una certa misura dai contribuenti italiani 32.000 euro al mese, a quanto si sa. Questo è l'articolo che trovate sulla prima pagina di Libero. Guardiamo l'apertura di Repubblica, la rivoluzione della sanità, su questo punta Repubblica oggi. Balduzzi, ecco il decreto studi, medici aperti 24 ore e tassa sulle bibite gasate. Studi medici aperti, sempre aperti, e tasse su bibite gasate e alcol. Nel decreto della sanità già pronto è prevista anche la tracciabilità dell'attività dei dottori. Novità anche dalle norme per le semplificazioni volute dal governo: arrivano la ricetta digitale, gli sportelli telematici per cittadini e aziende, ma la maggioranza chiede più concretezza. E ovviamente all'interno, a pagina 3, si approfondisce il tema, ma soprattutto c'è un'intervista al ministro Balduzzi. Balduzzi: non c'è spazio per i privati e basta tagli alle spese per la salute. Il governo Monti ha deciso di privatizzare la sanità, ministro Balduzzi. Fin tanto che sarò io il ministro non ci sarà privatizzazione della sanità. Del resto nel governo nessuno ha messo in discussione questa linea. Tuttavia il comunicato del Consiglio dei Ministri, durato venerdì 9 ore, è chiaro, dice il giornalista. Parla di creare nuovi spazi per le iniziative private attualmente bloccate da una presenza pubblica invadente e fa l'esempio della sanità. E il ministro risponde: non ci mettiamo a interpretare un comunicato. 9 ore sono servite a discutere di cosa ciascun ministero può fare per la crescita. Non ci sono stati dissapori, anche se abbiamo idee diverse, non essendo competitor l'uno rispetto all'altro, non ci bisticciamo. La discussione è stata lunga, forse perché siamo un po' matti e appassionati. ministro per la sanità, sono previste liberalizzazioni, ad esempio meno vincoli all'attività privata dei medici del pubblico? La nostra linea di politica, risponde Balduzzi, sanitaria, è quella di confrontarsi con le corporazioni e le lobby, ma di non farsene automaticamente condizionare. Liberalizzare è non sottostare alle volontà protezionistiche della categoria. Per quanto riguarda l'attività cosiddetta intramenia, cioè quella del libero professionale, dei medici che lavorano nel pubblico, che in alcune regioni non è stata regolata, puntiamo a creare trasparenza, un collegamento in rete con l'azienda sanitaria, così che non è importante dove la si fa, bensì che sia tracciabile, che non sia un modo per scavalcare le liste d'attesa, che si sappia quanti pazienti vedi e il guadagno dei medici. Se questo è liberalizzare la sanità, bene, la stiamo liberalizzando, però il pubblico è regolatore. Questo quanto trovate su Repubblica all'interno. Dalla prima pagina vi segnalo anche l'editoriale di Eugenio Scalfari, come ogni domenica, l'Europa federale tra il sogno e la realtà. Allora leggiamo: Mario Monti sarà ancora operativo fino a gennaio, poi la campagna elettorale inevitabilmente lo congelerà, 4-5 mesi ma ricchi di eventi e decisioni che possono avere effetti notevoli su quanto ne seguirà nella prossima legislatura. La prima decisione da prendere riguarda il rapporto tra il governo, il mercato e la Banca Centrale Europea. Finora Monti ha battuto e ribattuto sul tasto che l'Italia ce la farà da sola a rimettersi in piedi, restando fedele al programma di rigore già in atto, procedendo con le riforme, soprattutto per quanto riguarda la rapidità dei tempi della giustizia civile, la riqualificazione della spesa, l'evasione e infine il finanziamento, il rifinanziamento per quel che è possibile dell'economia reale. Questo orgoglio nazionale è stato un buon incipit per avviare il negoziato con la BCE e ottenere il suo intervento sul mercato dei titoli. Parliamoci chiaro, quell'intervento è indispensabile per difendere la moneta unica e garantire l'efficacia della politica monetaria, ma Draghi non darà mai inizio all'operazione da lui battezzata non convenzionale senza il via libera del Fondo Salva Stati, cioè dell'Unione Europea e del governo tedesco. Si tratta dunque di un passaggio obbligato. Il disegno di Monti sembra questo: formulare lui le condizioni del memorandum e sottoporlo al Salva Stati per l'approvazione. Monti conosce benissimo quale sia la condizionalità che l'Unione Europea e la BCE ci chiedono in aggiunta a quanto già fatto. E questo quanto trovate su la Repubblica che ha pagina 28 e 29 una lunga intervista a Capello. Il titolo: Povera Italia, provincia del calcio. Milan, Roma, Juventus, Real Madrid, ha vinto tutto, ha lasciato la nazionale inglese per fare il commissario tecnico della Russia. In questa intervista esclusiva a Repubblica il mister di ferro parla di nuove sfide, solitudine, cocci da incollare e del campionato che inizia e di un paese, il nostro, ormai troppo egoista. Questo quanto trovate all'interno di Repubblica. Rapidamente guardiamo l'apertura di Avvenire. È pressing su Monti, più concretezza, il premier 4 mesi per finire il lavoro. Il Fatto: partiti della maggioranza e sindacati incalzano il premier dopo il piano crescita, sul concorso della scuola scatta la protesta dei precari. È scomparso a 82 anni Armstrong, primo uomo sulla luna, questo quanto viene riportato su Avvenire. E poi c'è una notizia che Avvenire mette in prima pagina: altro orrore su orrore in Pakistan, bimba cristiana violata e uccisa, aggredita da un gruppo di musulmani nelle campagne. Queste alcune delle notizie che trovate sulla prima pagina di Avvenire. Non c'è il tempo per leggere gli altri giornali. Io vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione.